Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, aggiungiamo un altro capitolo al nostro breve viaggio nella chimica verde italiana che prosegue ormai da qualche settimana e che stasera ci porta a parlare di biolubrificanti con l'aiuto di Luca Lazzeri, ricercatore del CRA, Consiglio di Ricerca per le Colture Industriali e anche direi uno dei massimi esperti del settore. Buonasera Lazzeri. Buonasera a tutti. Senta, intanto per capire l'importanza di sviluppare dei lubrificanti di origine bio, iniziamo da un dato, quello dell'impatto ambientale dei lubrificanti. I lubrificanti hanno un forte impatto ambientale in quanto col termine di lubrificanti si comprendono moltissimi tipi di utilizzo, sia nel settore industriale che anche nel settore personale, diciamo. Quindi ci sono una serie di lubrificanti che prevedono di in partenza un utilizzo a dispersione nell'ambiente e come tale la differenza fra un olio a base di sintesi e un olio di origine vegetale è evidente in quanto si parla di biodegradabilità nell'ordine dei 24-28 giorni in confronto al petrolio che ha una biodegradabilità di anni, decenni in qualche caso. Ecco, circa il 45%, se non sbaglio, dei lubrificanti finiscono poi nell'ambiente, anche perché è impossibile, non è che manchi la raccolta differenziata, che proprio si disperdono nell'uso, durante l'uso, no? Certo, si disperdono nell'uso e poi c'è anche un altro tipo di dispersione dell'uso in quanto rimangono nel manufatto, certo, ad esempio certo, della pelle piuttosto che dei cosmetici. Senta, dal punto di vista tecnologico quali sono i problemi se parliamo di produrre lubrificanti di origine vegetale? Perché uno viene in mente che in realtà è la cosa più ovvia del mondo, gli oli vegetali li conosciamo tutti. Dunque, il problema tecnologico principale è l'ignoranza del mondo tecnologico, cioè nel senso abbiamo perso la conoscenza di un mondo vegetale illimitato praticamente a oggi e come tale non conosciamo le potenzialità che abbiamo, perché in realtà la natura produce già oli molto diversificati in funzione della loro composizione in acidi grassi e in funzione del fatto che esistono acidi grassi monoinsaturi o poliinsaturi. Sono una terminologia che conosciamo perché riguarda tipicamente l'alimentazione, non a caso. Esatto, no? sì, ma più o meno anzi il problema è che molti degli oli che usiamo in alimentazione potrebbero benissimo essere usati anche come lubrificanti. Certo. In questa ottica quindi la più grossa problema tecnologico è proprio di conoscenza che stiamo cercando di diminuire questa nostra ignoranza, ma rimane tale perché probabilmente i lubrificanti migliori sono ancora nascosti in qualche seme che non conosciamo. Ecco, quindi che tipo di filiera immaginate? Da dove arriva la materia prima? Scarti agricoli, colture dedicate? Beh, i biolubrificanti sono per eccellenza una delle filiere della chimica verde che maggiormente beneficia del concetto che la pianta è la prima bioraffineria, in quanto le colture oleaginose producono già di fatto degli oli, certo, e quindi partire da sottoprodotti, scarti, rifiuti e quant'altro può permettere di arrivare comunque a produrre un lubrificante, un olio, ma con passaggi chimici. Con tanti passaggi chimici, meglio lei dice coltivare direttamente la specie giusta. Questo però non genera il solito problema di competizione con le colture di tipo food, destinate al cibo, all'alimentazione? Beh, pur essendo un problema da analizzare nella chimica verde in generale, nel caso dei lubrificanti mi sento di dire che non è vero, non è un problema, in quanto la coltivazione delle oleaginose rientra nella rotazione di colture cerealicole e come tali le migliora e le incrementa le produzioni. Quindi è una pratica virtuosa che può essere rilanciata proprio attraverso la chimica verde. E poi in Italia, per esempio, stiamo perdendo, abbandonando terreni agricoli in continuazione, quindi forse qui il problema non si pone neanche tanto. Senta, c'è invece un problema oggettivo che è quello del costo. Questi lubrificanti hanno dei costi più alti, è un problema superabile? È un problema in parte superabile nel momento in cui arriviamo ad un'economia di scala. Comunque bisogna anche considerare che sostituire un prodotto non degradabile con un prodotto viceversa biodegradabile e ipotossico ha comunque dei vantaggi economici che in qualche modo devono essere riconosciuti per l'ambiente. Grazie Luca Lazzari. Grazie a voi. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.